Chiunque abbia deciso di ascoltare questo libro, di sicuro conosce il lavoro di Maria Gimbutas, che la nostra scuola ha già presentato in passato e dove vi rimandiamo al link in descrizione. La questione Kurgan, ovvero i popoli guerrieri indoeuropei che invasero l'antica Europa distruggendo le pacifiche comunità matrifocali autoctone a metà del Neolitico, spesso rimane nebulosa, specialmente alla luce del ritrovamento della mummia della sacerdotessa di Altai, sicuramente Kurgan, ma in contrasto con l'idea patriarcale che Maria Gimbutas ci ha trasmesso, e dell'opera dell'archeologa Janine Davis Kimball, che nel suo libro Donne e guerriere, le sciamane delle vie della seta, ci dà un'immagine dei Kurgan in cui le donne combattevano e avevano anche ruoli di leadership. Dunque, esploriamo le parole della stessa Maria Gimbutas, che coniò il termine Kurgan per meglio comprendere chi furono, come vivevano e quale fu la loro effettiva responsabilità nella distruzione della nostra cultura europea originaria. Ricordando che gli studi di Maria Gimbutas sui Kurgan risalgono all'inizio degli anni 60, mentre la scoperta della mummia in Altai è degli anni 90. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura di brani tratti da Kurgan, le origini della cultura europea, di Maria Gimbutas. Medusa Edizione, traduzione di Martino Doni. Da Devana, buon ascolto.